Allora di vittime vini fatta e puttane. Forse autobiografia che è il simbolo della mia cruce è un cane. Io non ho fama, ho fame. Vivo il teatro della miseria, fra da cui un re infame stupra il reame. Qualcuno non ha fiducia e rifiuta ciò di cui parlo. Fanculo, Milano brucia, fra la strada mi chiede di farlo. Perché nulla tenente, nulla facente. E a questo mondo non dà nulla per niente. Un dente perdente, chi nasce perdente. Ha un fuoco nelle viscere, vincere per sempre. Spinto dal lato sinistro, anche se oggi il diavolo è mal visto. È meglio ammazzare in nome di Cristo. Se vuoi chiedere ai miei fra, chi crede al dogo club o al sistema, piaga alla schiena della mia città. Non credi in Dio nella sua santità. Tu abbi fede, io non credo nemmeno alla verità. Trasmetto dal cosiddetto primo mondo, sono di nome, ora fermo questo secondo. Lo sfondo non vuole cambiare, io voglio farlo con le mie mani. E i cowboy perdono con gli indiani. E questo svolgere il business della musica ai suoi piani. Come stravolto il vero sui quotidiani. Chi non ha nulla da dire sta zitto. Il cervello in affitto da chi uccide la cultura intanto. Buongiorno cari concittadini, siamo ancora su Radio Virus, le voci della Milano infetta. Oggi è grande puntata del 25 aprile, apriremo con una serie di parole in libertà. Sappiamo che molti delegati sindacali all'interno delle varie luoghi di lavoro, come il Trivulzio, come il Palinegarola, come il Comune di Milano, sono oggetto di attenzione particolare, alcuni dei quali, come il Palazzolo, la casa di riposo dove sono morte più di un centinaio di anziani, sono stati addirittura fatti oggetto di provvedimento disciplinare. E noi, nonostante ciò, andiamo avanti. Il dato dei contagiati a Milano ufficiale, siamo oltre 17.500 persone infette. La capitale del contagio è Milano, la città che si appresta il 4 maggio, tra pochi giorni, a riaprire alcuni servizi. Vedremo in seguito le specifiche delle piste ciclabili e dei servizi che apriranno. Il dato di 17.500 persone infette è sottostimato, secondo il professor Massimo Galli, che è il professore dell'ospedale Sacco, che stima questa cifra inferiore almeno a un quinto dei reali infetti, dei reali contagi. Quindi siamo intorno alle 100.000 persone contagiate. È stupido dividere, come viene fatto spesso, Milano città da Milano Interland, perché è una realtà interconnessa dai tempi dei Celti, quindi da migliaia di anni è impossibile suddividere Milano tra Milano, Sesto, Cologno, Cinisello. Milano è un'entità metropolitana, è una megalopoli che abbraccia tutto il territorio, non solo della provincia, ma spingere il suo ordito fino alle prime colline della Brianza, al Comasco, sale verso il fiume Olona, verso il Varesotto, e quindi è una realtà molto ampia dove le possibilità che purtroppo avvenga una seconda ondata di contagi sono molto alte, secondo tutti i virologhi. Allora andiamo avanti con il 27 aprile. Ecco, ieri sera è arrivata questa delibera della regione che prevede la riapertura dei mercati all'aperto, quindi i mercati all'aperto anche di Milano potrebbero essere riaperti già da questo lunedì 27 aprile. Bisogna vedere in che modo, se ci saranno dei filtri all'ingresso, se alle persone presenti verrà misurata la temperatura. È molto importante perché abbiamo saputo dalla Società Italiana di Medicina Ambientale che in una relazione con vari studi epidemiologici e genetici compiuti dalle università di Bologna, di Bari e di Trieste, che il virus rimane nell'aria. Quindi moltiplica la preoccupazione questa notizia. Il virus rimane sia sulle superfici, fino a 2 o 3 ore sulle superfici plastiche, e all'interno sicuramente di ambienti poco areati, come possono essere gli uffici, i mezzi pubblici, e soprattutto rimane nell'aria tramite l'aerosol. I medici della Società di Medicina Ambientale hanno anche definito una possibilità che i dati del PM del particolato presente nell'aria abbiano influito sulla trasmissione del contagio. Quindi lì dove l'aria è più inquinata, lì dove ci sono aree più inquinate, più alto è il contagio. Sono delle dichiarazioni molto importanti, sono state riprese anche dall'Agenzia Giornalistica Italiana e da vari siti, lasciano un punto interrogativo sulle possibilità di difendersi da questo virus. Andiamo avanti con una buona notizia, riciclabili. Grazie al virus, purtroppo, sta diventando realtà quello che tutti i milanesi, tutti quelli che utilizzano le biciclette, auspicano da più di 15 anni, da quando sono iniziate le prime riunioni dei ciclici, le prime parade in bicicletta, tramite la possibilità di aprire delle piste ciclabili che il Comune di Milano sta sondando col governo, temporanee. Sembra che a breve verranno realizzati dei grossi radiali stradali, quindi ne abbiamo già per certo uno da Sesto Marelli, quindi la fermata di MM Sesto Marelli, fino a San Babila. Questo sarebbe una pista ciclabile eccezionale, perché permetterebbe di connettere alcune tra le più popolose zone di Milano, alleggerendo la pressione sui mezzi pubblici, e sarebbe una boccata veramente di ossigeno e di sicurezza per tutte le persone che saranno costrette a tornare a lavorare dopo il 4 maggio. E un'altra arteria molto importante, di grande scorrimento, è il controviale che parte, non so se avete presente, in fondo a Viale Fulvio Testi, dove c'è Bertoni Sport e dove c'è il Parco Nord, fino a Piazzale d'Agosta. Quindi tutto Viale Zara, Viale Fulvio Testi, verrebbe reso ciclabile. Non si sa se è un controviale, tutti e due controviali, però diciamo che sono dei grossissimi passi avanti e vanno sostenuti. Allora, chiudiamo qua il primo intervento. Adesso sentiamo le voci di alcuni pesanti, ve lo preannuncio subito, sia dei lavoratori delle case di riposo che di lavoratori del Comune di Milano che attualmente sono in servizio, quindi i servizi funebri, che sono oggetto di diverse lamentele da parte dei sindacati, perché ancora oggi, dopo quasi 3 mesi dall'inizio del contagio, non abbiamo il blocco degli ingressi, il filtro delle persone, la misurazione col termoscanner della temperatura e gli addetti alle pompe funebri, che ricordiamo che nel protocollo INAIL sono indicati come alto rischio, sono quelli che sono più a rischio, si siedono a meno di 30 centimetri, 40 centimetri dagli addetti del Comune di Milano. Sentiamo dalle voci dirette dai lavoratori tutto quello che sta succedendo. Grazie, ciao! Ho fatto una litigata dalla Madonna con la caposala di Ronzoni, me ne ho dette di tutti i colori. Comunque adesso ho finito di cambiarli, di lavarli, sono disorientati, frastornati, non ci capiscono un cazzo, una con la nutrizione, con la bag, quell'altra con la cintura perché wandry, quell'altra che continua a dire io avevo la mia stanzetta. Ragazzi, sto andando fuori di testa. La situazione dei lavoratori del settore funebri, uno dei pochi servizi aperti e funzionanti a pieno regime, è rilevante non solo in sé per le condizioni di lavoro, ma anche per riflettere tra colleghi se sia auspicabile, come, un'eventuale ripresa degli altri servizi del Comune di Milano. Sono infatti quattro i nodi focali: spazio e sanificazione, dispositivi di protezione, affluenza, contingentamento, digitalizzazione e smart work. Per quanto riguarda gli spazi, gli uffici di Via Larga sono di per sé abbastanza insalubri, in quanto i serramenti non consentono un ricambio dell'aria e l'impianto di aerazione ha problemi di funzionamento e igiene. Gli spazi sono abbastanza ristretti e rendono difficile attuare le distanze di sicurezza. Gli spazi non vengono sanificati, anche ultimamente, dopo segnalazioni di RLS e articoli sui giornali, hanno iniziato a pulire, per quanto in maniera sommaria, le scrivanie. I dispositivi di protezione sono arrivati in ritardo, verso il 12 marzo, perché il medico competente sosteneva che bastasse mantenere un metro di distanza per evitare il contagio. I dispositivi consistono in mascherina FP2, una di numero a testa, mascherine chirurgiche e un vetro di plexiglass 80x80 cm. Sull'efficacia delle chirurgiche di un vetro 80x80 su scrivanie di 2 metri nelle fermare il virus si rimane perplessi. Anche per ridurre sensibilmente l'afflusso dei cittadini si è proceduto solo verso il 15 marzo, svolgendo tutte le pratiche per le cremazioni tramite videochiamata, limitando quindi l'accesso ai soli cittadini che richiedono un servizio convenzionato. Il flusso delle imprese di pompe funebri invece è stato costante, se addirittura non è aumentato, come quello dei fattorini degli ospedali che più volte al giorno vengono a portare i documenti di morte dei defunti. Purtroppo c'è una resistenza ad acquisire questi documenti in formato digitale e di conseguenza si crea questo transito, con un'utenza che viene spesso da ospedali in piena emergenza Covid-19 come il Niguarda. Per concludere ugualmente sullo smart work non si è voluto fare molto, nascondendosi dietro all'ovvietà che i servizi essenziali sono da rendere in presenza. Il Comune infatti ha glissato totalmente in questo modo il fatto che, secondo l'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, il lavoro agile è la modalità originaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, mentre avrebbe potuto incentivarlo e ricorrere in primis per tutelare i lavoratori fragili, ossia gli over 55 oppure chi vive in genitori anziani. Non è così che possiamo ragionare, qui dice che ci facciamo troppo male, dentro il naviglio i discorsi del giornale. Salviamo Milano, cantava Enrico Ruggeri più di 30 anni fa con i suoi champagne Molotov. Noi siamo qua invece a darvi una buona notizia. Sono calati i numeri dei morti, sono calati i numeri dei morti a Milano, siamo sotto i 150 al giorno. Vi ricordo che nelle prime settimane di marzo si è arrivati fino a 218, il record 218-220 morti al giorno, segnalati presso gli uffici dei funebri, sono calati, quindi un'ottima notizia. E invece, sempre per quanto riguarda la più grande azienda di Milano, che è il Comune di Milano con 14.000 dipendenti, abbiamo i dati dei contagi. Per fortuna, dopo oltre due mesi, i dirigenti hanno dato i dati. Allora, abbiamo 32 morti, di cui abbiamo parlato lungamente in questa trasmissione, 30 contagiati ufficiali e 230 persone, tra loro familiari e colleghi, messi in quarantena. Quindi sono dei numeri importanti e per questo il Comune ha attivato un servizio psicologico tenuto dagli psicoterapeuti della MDR, un servizio che si può contattare tramite al telefono con dei link e delle mail che sono stati diffusi tra tutti i dipendenti comunali. Allora, un'altra notizia ottima è che partono i rimborsi di Milano Ristorazione. Molti genitori avevano già pagato le somme delle mense. Il 30 aprile scade un'altra scadenza con di tutte le rette delle mense, del cibo per i ragazzi, dalle medie alle elementari fino agli asili, Partono i rimborsi. Milano Ristorazione in questi giorni pubblicherà un avviso sul suo sito in cui verranno definiti tutti i dettagli di questa operazione. Allora, siamo pronti a darvi una notizia che farà la felicità di moltissime mamme che in questi giorni stanno impazzendo con i bambini a casa. Il Comune di Milano è pronto, nel caso in cui il governo e la regione dessero l'autorizzazione, ad aprire con cautela, con gradualità, chiamiamole summer school, delle colonie estive, dei centri estivi. Non si sa bene come, con quale personale, pensiamo sicuramente del personale di cooperativa e non quello del Comune di Milano, ma ci sarà la possibilità da metà giugno, se i numeri dei contagi dovessero diminuire e se il governo darà l'autorizzazione, di poter creare questi spazi per i ragazzi, per i bambini che stanno soffrendo, quelli che stanno soffrendo più di tutti l'isolamento domestico, all'interno degli spazi di Milano Ristorazione. Sono state fatte degli annunci anche da parte della ex assessora personale del Comune di Milano, che oggi è a capo di Milano Sport, Chiara Bisconti, e quindi diamo questa anticipazione: potrebbero riaprire alcuni spazi. Sicuramente sappiamo del Lido in Piazza del Lotto e di altri spazi di Milano Sport. Allora, il 4 invece, ecco, partiamo dalla ripartenza. Il 4 maggio, cosa succederà il 4 maggio? Mancano pochissimi giorni lavorativi, 3-4 giorni lavorativi, è dietro l'angolo il 4 maggio. Cosa aprirà? Allora, abbiamo detto i mercati comunali all'aperto, è possibile riaprirli, bisognerà vedere di strutturare gli ingressi, però è possibile riaprirli. Il commercio, le autorizzazioni del commercio sicuramente che sono al secondo piano di Via Larga, la sede centrale del comune, potrebbero riaprire, così come riapriranno i cantieri, questo è sicuro, è una disposizione della regione alla quale ha la competenza dei cantieri edilizi, dell'edilizia, dell'urbanistica in generale, e quindi i dipendenti del Comune di Milano, gli architetti, i tanti operai, i muratori, chiunque lavora coi cantieri, dal 4 potrebbe riaprire con gradualità. Quindi per il Comune di Milano riguarda tutta l'area tecnica, anche i direttori dei lavori. Quindi l'area tecnica riprenderà possibilmente il 4 maggio. Sicuramente la disposizione del direttore generale arriverà o il 3 o il 2, quindi in prossimità della riapertura. Ecco, un'altra notizia molto importante che vi vogliamo dare è questa class action, chiamiamola, questa raccolta di adesioni che viene da più parti, dal Comitato delle Vittime dei Lavoratori del Trivulzio, da tantissimi delegati sindacali, da educatrici, da cittadini comuni, da tantissimi lettori delle nostre notizie, tantissimi ascoltatori, tantissimi lettori di Milano X. Vi ricordo che Milano X è la pagina Facebook, il sito di collegamento a questa trasmissione. Insomma, tutti chiedono una class action su chi è stato a diffondere quel maledetto omicida video Milano non si ferma, che ha provocato un'esplosione dei casi a Milano. Vi ricorderete, nelle prime settimane, dopo le prime fasi di cautela, è partita questi aperitivi, questi spritz da parte di politici, di assessori, di persone che avrebbero dovuto usare maggior cautela e invece hanno diffuso su tutti i social questo video dove c'erano ragazzi che si baciavano, persone che si abbracciavano, ristoranti pieni. Insomma, molti cittadini milanesi ci chiedono di fare da megafono a questa class action. Potete trovarla sul sito, sulla pagina Facebook Milano X, e le adesioni si inviano a milanoxer@gmail.com. Ripetiamo, milanoxer@gmail.com. Adesso parola alle voci dalla città. Qui siamo all'anagrafe di Piazza Raccursio, quello che è successo nelle prime 3 settimane di apertura, e poi parleremo di una delle categorie che è stata più colpita dal virus, tra i dipendenti del Comune di Milano, che i giroposta, i commessi che portano le comunicazioni in giro per Milano. E ci sarà un'importante testimonianza da parte di una lavoratrice oggi in pensione che dirà una cosa molto importante, che il giroposta a 20 giorni dall'inizio del contagio, quindi dopo il 9 marzo, erano ancora in giro, quindi lavoravano privi di guanti e mascherine. Immaginatevi cosa hanno rischiato. Ciao! Senza vetri di protezione, mentre il disinfettante è arrivato solo pochi giorni prima della chiusura. Nonostante ci fosse già un'ordinanza che vietava alla gente di uscire, e non, se non per, per necessità, abbiamo avuto sempre tante persone in coda. L'accesso doveva essere per appuntamento, ma questa cosa non si è gestita bene. Veniva chiunque. Noi abbiamo lavorato sino all'ultimo giorno con tanta paura. Ehi ragazzi, sono qua. Due secondi, ho il tempo di fumare una sigaretta. Mi hanno portato i pazienti pieni di merda da cambiare. Ho fatto una litigata dalla Madonna con la caposala di Ronzoni. Me ne ho dette di tutti i colori. Comunque adesso ho finito di cambiarli, di lavarli. Sono disorientati, frastornati, non ci capiscono un cazzo, una con la nutrizione con la bag, quell'altra con la cintura perché wandering, quell'altra che continua a dire io avevo la mia stanzetta. Ragazzi, sto andando fuori di testa. La settimana del 9 marzo è venuto presso i nostri uffici giroposta, che viene due volte alla settimana, sia il martedì che il giovedì, e non aveva nessun tipo di protezione, né guanti e né mascherina. Io, avendone qualcuna di scorta, gliele ho date, perché mi è sembrato più giusto che poverino, facendo un giro per tutti gli uffici del Comune di Milano, poteva anche essere a rischio. Ho saputo che sempre lui la settimana successiva aveva anche era stato a casa di malattia per febbre. Io dico che il giroposta, sono andato in giro per Milano anche dopo la settimana del 13 marzo senza le protezioni, le mascherine. Possiamo ragionare, mi dice che ci facciamo troppo male, dentro il naviglio, i discorsi del giornale, allora è meglio il colorante artificiale. Sono già qui, non ce n'è uno che riparte. Poi così, uno nessuno centomila. Puri qua, e non si mettono più in fila. Yeah. risanare.